Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa che avete ascoltato era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine e dalle ore 20 alle ore 21:30. È una trasmissione che viene condotta, insomma, mandata avanti grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Udine e Trieste. E tra l'altro questo brano che abbiamo ascoltato era Retribution dei Behind Enemy Lines. E che altro dire, prima di così far ascoltare diciamo una band che abbiamo già messo qui, già programmata, volevo anche ricordare che oggi tutta questa puntata sarà esclusivamente musicale E anzi, una cosa che poi facciamo anche alla fine della trasmissione, ricordiamo i nostri contatti, che per chi volesse scriverci può farlo alla posta elettronica, che è liberetutti@autistica.org. ripeto, liberetutti@autistica.org, oppure scriverci direttamente alla nostra casella postale, che è intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto anche questo contatto, indirizzando alla casella postale 129 Trieste Centro 34121, intestando ad Associazione Senza Sbarre. Inoltre, tutta questa puntata odierna, ma anche tutte quelle precedenti, potete riascoltarla nel blog, ovviamente cercando in rete zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, allora adesso andiamo all'ascolto di un disco, un 7 pollici un po' datato, comunque che risale al 1997, insomma sono già 25 anni fa. Questa è una band romana, loro si chiamavano Growing Concern, e questo è il loro 7 pollici, Never Fades Away. Che dire, è una band che si è formata proprio alla fine degli anni 80, nell'89, e è andata avanti quasi tutti gli anni 90, quasi tutti, perché dopo questo disco, questo 7 pollici, non so se ne ha fatto uno successivo, e poi la band si è sciolta. Comunque band che fa parte di tutto quel filone punk hardcore degli anni 90, che erano un po', si rifacevano, almeno secondo me, molto all'hardcore americano, in stile Straight Edge. Che altro dire, che questo disco era uscito per l'etichetta romana SOA, che non mi ricordo cosa, che sigla era, comunque la SOA di Roma. E come detto, loro Growing Concern. Altra cosa, vabbè, dato che adesso è quasi un decennio che escono svariati libri sul punk hardcore italiano degli anni 80, è pure uscito recentemente un libro sul punk hardcore italiano degli anni 90, e ovviamente tutte queste band, come questi attuali Growing Concern, ne fanno ovviamente parte. Anzi, tant'è che il libro è uscito sull'hardcore punk anni 90, proprio ha preso spunto il titolo del libro dall'LP di questa band, che è Disconnection. E comunque noi ci ascoltiamo ora i Growing Concern. We'll be right back. Bene, e abbiamo ascoltato questa band di Roma, loro erano i Growing Concern, dal loro 7 pollici datato 1997, Never Fades Away, come detto prima, band che faceva parte di quel filone degli anni 90 del punk hardcore italiano, con chiari riferimenti a quel punk hardcore degli anni 80 statunitense e addirittura straight edge, come appunto questa band che era anche uscita per la etichetta SOA di Roma, che ha, diciamo, prodotto quasi tutte quelle band che sono uscite negli anni 90, in particolare ovviamente a Roma, ma poi si è anche espansa a livello internazionale. Va bene, e ora invece andiamo all'ascolto di questa band inglese, dal loro CD album No Man's Land. Loro sono gli Autonomous, insomma, ascoltiamoli. Bene, e teniamo in sottofondo questa band che abbiamo già ascoltato ben due brani per intero, adesso sta andando un terzo. Loro sono gli Autonomous, questo è il loro album datato 2010, No Man's Land. Diciamo che è una band che comunque è molto political correct, che si dà... cioè che fa parte della scena delle autoproduzioni, anche se ovviamente si rifanno tutto al movimento punk hardcore, anarco punk, e ovviamente sono molto influenzati pure dal dub. Come detto, sono inglesi, per l'esattezza di Manchester, e questo album è del 2010, anche se è stato registrato nel 2008, che inizialmente la band, così per farsi conoscere agli inizi, durante i loro concerti, diffondeva appunto questo stesso album, però in versione promozionale, già dal 2008, l'anno in cui si è formata, e comunque una band tuttora esistente. E anche questo disco era uscito per le due etichette inglesi, credo tra le più conosciute a livello internazionale, del movimento punk hardcore, anarco punk, eccetera eccetera, appunto Active Rebellion, e che poi c'era anche la loro Active Distribution. Comunque loro erano gli Autonomous. Ora invece andiamo all'ascolto di una band, no, di una band, scusate, di una ragazza che è, diciamo, anche ovviamente un po' una svolta musicale, però partite dal punk hardcore ci stiamo un po' alleggerendo per andare appunto a quest'altra uscita completamente autoprodotta di questa ragazza di Pescara, che si fa chiamare Nana, e questo è il suo album del 2017, che si chiama 2 ore 45, è completamente in acustico, e ci ascoltiamo un paio di brani per questa pescarese Nana. Bumps are tired to move. I'm here. Been tied down to a place as terrifying as well as being always on the move. Expect anyway. I was never made for staking our own places. Our conversations longer than 10 minutes. I thought you figured that out by now. How can I make a better out of this bad habit? The society that wants you to be a good productive citizen. There's no place for me in your eyes. Just books, but here you go. There's my MS, so please don't forget me when I won't be around. I was never made for keeping contact with friends and family. I was never made for showing emotions. Well, listen, sometimes I was never made for taking rest, but I still quit my job if I'd won. I was never made for a steady life. Bene, questa è Nana dal suo album 2H45, 2 ore 45, lei è di Pescara e questo era un CD completamente autoprodotto grazie all'etichetta Scatti Vorticosi della zona di Torino. E che altro dire, è datato 2017. E rimaniamo in questo filone oggi un po' così acustico, non facciamo passare le solite robe cosiddette sdrondenate e quant'altro del punk hardcore, ma rimaniamo comunque con questo filone. Andiamo invece in quel di Ravenna e altra ragazza che ha fatto un suo album nel 2016 completamente autoprodotto, anche questo. Lei si chiama a questo acronimo che è RIF, che sta per Restless Yellow Flowers, e andiamo all'ascolto di questo album del 2016. Empty. Bene, sfumiamo anche questa ragazza che sotto il nome di Riff ha fatto uscire questo album nel 2016. Lei di Ravenna, comunque è acronimo di Restless Yellow Flowers, comunque lei in realtà si chiama Francesca e non so perché, insomma, vabbè, decisione sua e chi se ne frega, si fa chiamare Riff. E ora invece passiamo ad una band londinese, da questo loro album che è datato 2012, così torniamo un po' al legame che anche c'è tra questa band e quella che abbiamo ascoltato prima, gli Autonomous, sempre inglesi. Comunque questi sono gli Inner Terrestrials, londinesi doc, e questo è il loro album, o comunque andiamo ad ascoltare un paio di brani dal loro album datato 2012 che si chiama Tales of Terror, Inner Terrestrial. Angle. agenda and this is what they said. Wait, Raffi's in this neighborhood, and we don't fuck about, so you better be good. Those firms as big as ours and we show no fear. The hills are gone, so the towns and cities are ruled by us with an iron grip. You march to our drum and you live in our trip. We're the engines, mechanics, we've got the tools. This is Animal Farm, we're the pigs we roll. At home, at school, at work, in the street, you will respect authority and you will obey the rules just like everybody else. We roll! Cause the bastard thought it over me would not give me my money. But a power trip was obvious, malicious and low. Bene, sfumiamo un po' e ci parliamo sopra questi interterrestri, al band londinese che si è formata alla fine degli anni 90 e questo era il loro album datato 2012, Tales of Terror, e anche se ovviamente tutti i brani erano stati registrati prima, e comunque che altro dire, che questa band è tuttora esistente, è stata per un periodo inattiva verso la fine, cioè tra il 2006 e il 2010, per problemi di salute anche del batterista, che era Paco, ex batterista di un'altra nota band punk hardcore, anarco punk inglese, ovvero i Conflict, e anzi poi il batterista poi se n'è andato, ci ha diciamo lasciati nel 2013, e comunque ora l'anno scorso nel 2021 ovviamente con un altro batterista gli Interterrestrial hanno fatto uscire un nuovo album che tra l'altro abbiamo già ascoltato alcuni mesi fa, anzi credo l'anno scorso quando questo album è uscito, ma comunque ne faremo ascoltare in futuro sempre questi londinesi Interterrestrial. Poi come sempre tutto è casuale in questa trasmissione, che ripeto siamo sempre in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Il programma è Zardins Magnetics e va in onda dalle ore 20 alle 21.30 ogni giovedì, ed era per dire tutto in diretta, tutto casuale, che abbiamo l'ennesima band inglese, cioè dico tutto casuale perché noi non è che ci prepariamo una scaletta musicale a casa, prendiamo così nel sacco di tutti i nostri dischi, un po' tutto in fretta e furia come sempre, e era per dire che ascoltiamo un'altra band inglese, anche loro londinesi, pare una band che poi ha fatto uscire due album ed è defilata, nel senso non se n'è più sentito parlare. Loro sono gli Unfixed, e questo è il loro album datato 2013, ne hanno fatto uno successivamente nel 2014 e poi zero assoluto, non si hanno notizie, peccato perché è una band che merita. Questo è il loro album, come ho detto, 2013, e che si chiama Battleside. Loro sono gli Unfixed. We'll be right back. Bene, questi sono gli Unfixed, band londinese, così mi hanno preso un po' impreparato perché qua i brani sono, me li ricordavo più lunghi, che ne sono già passati, se non credo, forse questo è il quarto, comunque vabbè. Questo loro album datato 2013 che si chiama Battleside, successivamente hanno fatto un album nel 2014, di questa band poi non si è più saputo nulla, proprio mi sono addirittura interessato ma non ho trovato nulla sull'internet. E ora invece andiamo all'ascolto di una band che ormai è diventata molto conosciuta. Loro sono canadesi, è una band che si è formata alla fine degli anni 80 e aveva fatto molte uscite completamente autoprodotte prima di passare a questa nota etichetta statunitense, la Fat Wreck Records. Loro sono i Propagandi e questo è il loro album datato 2006, no scusate, datato 1996, notevole la accerchiata enorme nel loro album, loro, e questo è l'album Let's Talk More Rock, loro sono i Propagandi. Called here to tell me that you're finally dying through a veil of childish cries. The opinions expressed in the following message are those of the Shell Petroleum Company and in no way misrepresent the business interests of the corporate-owned media in which it originally appeared. People have the right to the truth, unvarnished, even uncomfortable, but never subjugated to a cause, however noble or well-meaning, they have the right to clear thinking. Slogans, protests, and boycotts don't offer answers. It has been suggested that Shell should pull out of developing nations altogether. Oil would certainly continue flowing, the business would continue operating, the vast majority of employees would remain in place. But the sound and ethical business practices synonymous with Shell, the environmental investment, and the tens of millions of dollars spent on community programs would all be lost. Again, It's the people of developing nations that you will blame. It's easy enough to sit in your comfortable homes in the West, calling for sanctions and boycotts against a developing country, but you have to be sure that knee-jerk reactions won't do more harm than good. Some campaigning groups say we should intervene in the political process in developing nations, but even if we could, we must never do so. Politics is the business of governments and politicians. The world where companies use their economic influence to prop up or bring down governments would be a frightening and bleak one indeed. Privately profitable, the anthem of the operative puppeteer, untouchable. Focus a moment, not in approval. Bury our heads in the bargains of these neo-colonials. Bene, teniamo in sottofondo questi canadesi propagandi, band diciamo political correct, con molto senso dell'umorismo nei loro testi, e questo è il loro album datato 1996, che si chiama, si intitola questo album Less Talk More Rock. Comunque band che con questo album diciamo ha firmato per l'etichetta Fat Wreck Chords, che è un'etichetta di se non erro di uno dei della band NoFX, che tra l'altro diciamo che questi propagandi sono molto simili allo stile musicale dei NoFX, anzi più volte sono andati in tour assieme queste due band. E vabbè, Canada, propagandi. Ora invece passiamo ad un'uscita discografica del 2019. Il titolo di questo disco è Food Not Bombs, Scopie, ed è una compilation. Era uscita appunto nel 2019 come benefit per per delle associazioni che gravitano nel, appunto nel quello che è il Food No Bombs della Macedonia, esattamente di Skopje, e ci sono in questa compilation più band a livello direi internazionale. Ora noi andiamo all'ascolto del lato A, non so se ascolteremo i primi tre brani, e che quindi sono i Doom, i Forca Macabra e i Forward. E comunque all'interno di questa compilation poi ci sono pure i Kina, Rubella Ballet, gli Eusars, anche gli Indian Nightmare. Comunque vabbè, è una compilation, è tutta italiana, e si chiama Food No Bombs Skopje, come già detto, per associazioni che militano in Macedonia. Quindi l'ascolto del primo brano è quello dei Doom. Abbiamo ascoltato tre brani da questa compilation tutta italiana datata 2019, anzi tutta italiana, se vogliamo dirla tutta, è una compilation uscita qua in Friuli e grazie all'interessamento di due etichette discografiche, se così vogliamo definirle tale queste due etichette. Comunque questa compilation benefit si chiama Food No Bombs Skopje, che è Skopje, ma ovviamente capitale della Macedonia, e appunto era così in aiuto di queste associazioni che gravitano all'interno di questo gruppo che è Food No Bombs, gruppo diciamo conosciuto a livello internazionale, e addirittura ci sono, insomma, per chi volesse contattare o anche per semplice donazioni c'è pure un indirizzo mail che mi è quasi impossibile leggerlo, vabbè, ma intanto anche se ve lo leggo voi non prendete nota e tantomeno manderete delle donazioni a questo indirizzo mail. Quindi limitiamoci a così a dire l'uscita di questo LP con anche le tre band che abbiamo ascoltato, che sono gli inglesi Doom, band storica, tuttora esistente. Poi abbiamo ascoltato il secondo brano, erano i Forca Macabra, band finlandese, e i giapponesi Forward. Ora invece facciamo un salto così, tutto questo salto, questo balzello, per finire negli Stati Uniti e all'ascolto di un paio di brani per questa band che non esiste più, che sarà formata alla fine degli anni 90 per sciogliersi esattamente nel 2004, e nel 1999 fece uscire l'omonimo album che appunto dà anche il titolo alla band, anzi viceversa, il nome della band dal titolo all'album, che loro sono gli F Minus, direttamente dalla California, Stati Uniti. Slave labor. Yeah. Bene, teniamo in sottofondo questa band, gli F Minus, dal loro CD omonimo datato 1999, band che si è formata 2 anni prima e poi si è sciolta nel 2004. Tutto questo è successo in California, Stati Uniti. Bene, e altra cosa molto importante è che siamo giunti già al termine di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Prima così di salutarci, ovviamente, oltre a dire che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste, vi volevo ricordare un'iniziativa che si svolge domani, quindi venerdì 20 maggio, nello spazio autogestito di Via De Rubeis al numero civico 43. Ci sarà un'iniziativa a sostegno di una cassa di mutuo appoggio contro Green Pass e obbligo vaccinale, più o meno, appunto questa ci sarà anche prima alle ore 19 una cena benefit, e poi alle ore 20 appunto ci sarà una proiezione di questa, diciamo, questo video di Giuseppe Tritto, La guerra senza combattere, che appunto si tratta di una intervista. Questo domani, spazio autogestito in Via De Rubeis numero 43. Poi vi volevo ricordare i soliti contatti nostri. Chi volesse scriverci, ovviamente tramite posta elettronica, può farlo a liberetutti@autistica.org, ripeto liberetutti@autistica.org, oppure in forma alla vecchia, insomma in forma cartacea, intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre ricordo che potete ascoltare questa trasmissione e anche tutte quelle precedenti navigando nell'internet. Troverete zardinsmagnetixradio.noblogs.org, ripeto zardinsmagnetixradio.noblogs.org. Bene, siamo come di consueto, sono le 21:30, quindi siamo giunti alla fine. Appuntamento per il prossimo giovedì, sempre in diretta radiofonica qui dagli studi Radio Onde Furlane, e vi lascio con un brano di questa band inglese che si chiamava Epileptics, che è da un loro 7 pollici del 1978, band comunque diventata poi storica con il nome di Flux of Pink Indians. Comunque loro in questo 7 pollici si chiamano Epileptics, band inglese. Ciao a tutti, al prossimo giovedì. Truth is our star. For those I don't want, say it again. I want another truth disaster. Those I tell again, say it again. About time we had another disaster. Both are war, they got a better break. So much easier than the bishop can say. I got the mortgage and I don't want to wait. But no bloody driver's gonna be a mistake, oh yeah. I want to marry a true disaster. I want another one like the last one. Cause I live for true disasters, yeah. News I tell, I want to see it again. I want another true disaster. News I tell, I'm gonna see it again. again. Third time we had another disaster. Go for a walk, forget about a break. So much easier than a fisher can take. I have a mortgage and I don't want to wait. But no bloody driver's gonna make a mistake, oh yeah. Oh, got a little home. Please be, ain't he the dog? Oh, oh, ain't he the you disasters. I want to marry a you disaster. I want another one like the last one. Cause I live for you disasters, you. That was a ten. Say it again. I want another you disaster. That was a ten. I'm gonna say it again. But I'm waiting. Another disaster, yeah.